scava in profondità, sposta le montagne, crea diversità. Popoli che l'aspettano e poi l'adorano, popoli che la temono e poi la combattono. Ombre lucide sul suolo che si muovono nel rumore della pioggia. Ombre luci solo un suono nell'immensità. Che scende se ne va, lascia le tracce, chi lo sa.